mondo del lavoro un po' è in linea con quello che stavamo dicendo. Le donne tendono a essere, diciamo, meno attratte dalle professioni nell'ambito informatico e quindi ad avere, diciamo, meno competenze in questo senso. Allora, un po' di numeri ce li dà una ricerca pubblicata da poco dall'Università Ca' Foscari di Venezia, sono proprio le edizioni Ca' Foscari, ed è una ricerca in parte cofinanziata dalla Regione Veneto e dal settore pari opportunità. Il titolo di questo libro si chiama Donne e tecnologie informatiche, lo segnaleremo sul nostro Twitter anche perché è scaricabile gratuitamente in rete, quindi per chi è interessato naturalmente c'è la possibilità di andare proprio a vedere i contenuti anche dettagliati di questa ricerca. Gli autori sono Emanuela Boschetto, Antonio Candiello, Agostino Cortesi e Fabio Fignani, e sostanzialmente la ricerca racconta, fa un panorama, descrive un panorama piuttosto desolato, perché nelle professioni cosiddette ICT, quindi l'Information Communication Technology, che abbraccia a grande raggio un po' tutte le professioni nell'ambito informatico, quindi non vuol dire solo i programmatori naturalmente, ma un po' tutte le figure che vivono dentro a questo settore, le donne scarseggiano, ma scarseggiano davvero, sono meno del 25%, quindi è uno dei settori dove minore la presenza femminile, nonostante questo settore stia crescendo come importanza economica e vari dati, qui vengono citate ricerche diverse, Damiana, ma sostanzialmente siamo attorno al 5-6% del PIL come importanza economica di questo settore nei paesi europei, un po' di più per esempio negli Stati Uniti o addirittura in Taiwan, beh lo sappiamo perché molti dei nostri oggetti vengono da Taiwan, è evidente che questo paese ha puntato moltissimo su questo settore, dove il settore appunto ICT raggiunge addirittura il 10% come peso del PIL. Un settore quindi che può fare la differenza. Può fare un'enorme differenza, ma sì, può fare enormemente la differenza, la farà sempre di più, perché appunto se non prendiamo un segmento stretto, ma il settore nel suo complesso, parliamo di tutte le professioni che portano alla digitalizzazione, quindi anche alla gestione dei servizi pubblici, lo sappiamo sempre più, l'amministratore diventa sempre più digitale e i gestori per esempio di rete, organizzazione delle reti nei settori complessi come può essere appunto la pubblica amministrazione saranno sempre più importanti. Le donne appunto sono poco presenti e quello che ci dicono i ricercatori veneziani è che questo è un gran peccato, perché questo è un settore dove la presenza femminile è molto richiesta. E sappiamo che molte aziende, io faccio sempre l'esempio di Google perché Google è la grande azienda di riferimento, naturalmente non è l'unica, ci tengono molto ad avere una presenza femminile forte, perché è evidente che appunto punti di vista, culture, sguardi, caratteristiche, competenze diverse arricchiscono moltissimo il risultato e quindi c'è una forte propensione a cercare appunto donne all'interno di questi settori, tanto che, questo è forse il dato più interessante, è uno dei pochi settori in cui il cosiddetto gap salariale, quindi la differenza di salari tra donne e uomini, è molto bassa rispetto ad altri settori, quasi tutti i settori dell'economia, dove le donne a parità di competenze, anche ai livelli elevati, anche ai livelli manageriali, spesso guadagnano meno degli uomini. Questo è un problema che abbiamo affrontato più volte, anche l'avete affrontato anche voi a Radio Città del Capo. In realtà in questo settore invece si avvicinano molto i compensi. Questo è un dato molto interessante, perché sembra comunque che il mondo del lavoro sia aperto, però comunque forse non abbastanza attrattivo. Ecco, questo è un punto fondamentale, hai proprio detto bene, perché in effetti il problema di fondo qui è addirittura a livello degli studi, cioè evidentemente questo tipo di discipline, cioè le discipline informatiche nel loro insieme, sembrano estremamente poco attraenti addirittura a livello proprio di iscrizione all'università. Questi ricercatori danno dei dati molto interessanti, perché in quasi tutte le discipline ormai, quasi in tutte le facoltà, le iscrizioni al primo anno di studi sono nettamente superiori, diciamo, per quanto riguarda il genere femminile rispetto al genere maschile. Ci sono molte più donne che si iscrivono all'università che uomini, ma parliamo di cifre importanti, anche il 130% diciamo delle donne rispetto al 100% degli uomini. Nei settori diciamo più tipicamente scientifici, delle cosiddette scienze dure, questa percentuale naturalmente si riduce, si inverte, le donne, dico naturalmente perché tradizionalmente sono settori che non hanno esercitato una forte attrazione nei confronti della componente femminile, e abbiamo per esempio nell'ambito delle scienze dure percentuali in cui le ragazze sono il 60-70% rispetto ai ragazzi. Ecco, nelle discipline informatiche questa percentuale scende al 20%, quindi riflette assolutamente quello che poi si vede nel mondo del lavoro. Per cui un po' uno dei risultati importanti di questa ricerca è che bisogna puntare evidentemente proprio su rendere attraenti queste discipline addirittura a livello di studi. E chiudo, Damiana, dicendoti che questo punto, loro sottolineano, è molto interessante facendo una serie di studi qualitativi, parte proprio da una percezione che evidentemente i genitori, entrambi, donne e uomini, madri e padri, esercitano sulle figlie, cioè la sensazione che quel tipo di disciplina sia poco adatta al percorso femminile, che quindi consigliano molto poco i propri figli di, le proprie figlie di intraprendere appunto questo percorso. E questo è risultato da una ricerca specifica, quindi da una serie di interviste fatte a ragazze e ragazze, dove un dato sorprendente per me è che ancora la famiglia eserciti un potere così elevato, diciamo, di orientamento nelle scelte universitarie, ma addirittura in questo caso appunto sia la madre che il padre sembrano molto indirizzare le figlie verso altri tipi di discipline. Forse anche a causa della crisi l'influenza si fa sentire molto di più, insomma la scelta sbagliata è la cosa di cui si ha un po' più paura, la crisi limita un po' i sogni anche. Questo è sicuramente vero, però appunto se valutiamo che il dato finale, questo forse appunto lo, conviene risottolinearlo, se il dato finale è che questo settore occupazionale è uno dei pochi che in realtà è stato toccato veramente poco dalla crisi e anzi è in espansione, e dove le donne hanno grandi opportunità, sono molto richieste e guadagnano quanto gli uomini, il che insomma appunto è molto raro, diciamo, in altri settori, insomma mi sembra un buon motivo per spiegare ai genitori e alle ragazze che si devono iscrivere all'università che qui vale la pena cambiare un po' il tiro.